Vangelo di Giovanni, capitolo tredicesimo. Or avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figliuol di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale s'era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Tu non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai meco parte alcuna». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che d'aver lavati i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti», perché sapeva chi era costui che lo tradirebbe, e per questo disse: «Non tutti siete netti». Come dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quel che v'ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, v'ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli un agli altri, poiché io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo signore, né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Io non parlo di voi tutti. Io so quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto, voi crediate che son io il Cristo. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato». Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e così apertamente si espresse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro stando in dubbio di chi parlasse. Or a tavola, inclinato sul seno di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro quindi gli fe cenno e gli disse: «Di, chi è quello del quale parla?» Ed egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto un boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figliuolo di Simone Iscariota. E allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano, siccome Giuda tenea la borsa, che Gesù gli avesse detto: «Compra quel che c'è bisogno per la festa», ovvero che desse qualche cosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Or quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il figliuolo dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e presto lo glorificherà. Figlioletti, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vo io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli un gli altri, come io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli un per gli altri». Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove io vado, non puoi per ora seguirmi, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Metterò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Metterai la tua vita per me? In verità ti dico, che il gallo non canterà che già tu non m'abbia rinnegato 3 volte».